8. Ascolta e controlla. 1. Aspetta Roberto al bar. Non aspettare Roberto al bar. 2. Bevete molto. Non bevete molto. 3. Scrivi un'email. Non scrivere un'email. 4. Scrivete subito la relazione. Non scrivete subito la relazione. 5. Mangia tutto. Non mangiare tutto. 6. Finisci il lavoro ora. Non finire il lavoro ora. 7. Spedisci la lettera oggi. Non spedire la lettera oggi. 8. Fate ginnastica dopo la lezione. Non fate ginnastica dopo la lezione.